Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio. Oggi è il 22 dicembre, Italia in controluce, due edizioni, 6.30, 13.30. Come viene monitorata l'intera rete ferroviaria in Italia sul piano della sicurezza? Quali sono i piani di pronto intervento? Quali le misure adottate dopo i molti incidenti ferroviari lungo la rete che corre lungo la nostra penisola? Il reportage di Simone Spezia. 24.209, tanti sono i chilometri della rete ferroviaria del nostro paese. Alcuni di questi sono stati segnati da drammatici incidenti, da Piacenza a Rometta Marea, nel Messinese, da Crevalcore a Viareggio, per rimanere solo agli ultimi anni. Ma ogni incidente, per quanto doloroso, ha portato riflessioni e generalmente un incremento della sicurezza. Ora siamo alla vigilia di grandi cambiamenti. La liberalizzazione porterà, e in parte lo ha già fatto, nuovi e diversi treni passeggeri sulle nostre strade ferrate. Dall'inizio di quest'anno l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che prima si occupava solo dei convogli, ha assunto la competenza per il controllo delle infrastrutture. Il quadro, ci spiega il direttore generale Alberto Chiovelli, è mediamente piuttosto confortante, anche se con qualche problema. Rispetto a quelli che sono gli indicatori anche europei, possiamo dire che siamo allineati ai livelli di sicurezza degli altri paesi europei. Ci sono delle, a seguito delle attività che noi abbiamo svolto, ci sono invece dei segnali che vanno un attimo approfonditi perché sono un po' preoccupanti. In particolare a cosa si riferisce? Ma diciamo che in particolare mi riferisco ai risultati che noi abbiamo ricavato dall'analisi dell'armamento, in particolare dei deviatoi, dai quali abbiamo verificato che in una percentuale consistente di casi da noi ovviamente visti a campione, che è circa il 7%, ci sono delle quote che sono fuori delle tolleranze previste dalle norme. Cosa intende per fuori dalle tolleranze? Ma come è intuibile, questi dispositivi devono rispondere a precisi requisiti geometrici con ovviamente delle piccole tolleranze, all'interno delle quali sono permessi degli scostamenti. Quando questi scostamenti sono superiori a quello che prevede la norma, scatta la lampadina dell'allarme. Ecco. E questo è dovuto a che cosa? Una scarsa manutenzione? Ma normalmente in questi casi il problema è certamente la manutenzione. La situazione più complessa sembra essere quella siciliana. La premessa: dopo l'incidente avvenuto nel 2005 a Crevalcore, poco distante da Bologna, quando un treno merce e un interregionale si scontrarono e morirono 17 persone, fu deciso di creare un sistema di controllo su tutta la rete elettrificata italiana, che si attiva nel caso, per esempio, che un macchinista non rispetti per errore un semaforo rosso. Interviene l'elettronica e frena automaticamente il treno. Il sistema deve essere installato tanto sul treno quanto a terra. In Sicilia ci sono 350 chilometri di ferrovie che non sono coperti da questo sistema. Sulla rete nazionale noi abbiamo tre sistemi di protezione della marcia del treno diversi: uno per l'alta velocità, uno per la rete a maggior traffico e uno per la rete a più scarso traffico. Ora, in Sicilia c'è questa situazione, e cioè che le linee sulle quali è stato montato il sistema di protezione della marcia del treno previsto per quelle a scarso traffico, in realtà sono percorse da treni che hanno a bordo il sistema SCMT, cioè quello che è previsto per le linee a maggior traffico, e quindi pur avendo la terra con i dispositivi di sicurezza e i treni con i dispositivi di sicurezza a bordo, questi non dialogano. E quindi, in sostanza, se ci fosse un errore umano, un errore del macchinista sul fronte della marcia del treno, in questi 350 chilometri di rete non c'è protezione? Sì, sostanzialmente sì. Ora, è chiaro che la installazione di queste apparecchiature di sicurezza a bordo dei treni è un fatto graduale che si sta completando anche sul resto del parco. Però in questo caso c'è questa, se vuole, stortura, per cui noi abbiamo già i dispositivi sia a bordo che a terra, e il fatto che non dialoghino sicuramente non è una cosa positiva. Evidentemente c'è stato un difetto di programmazione che va corretto. Non è tutto. Nel corso delle ispezioni effettuate nel mese di ottobre, l'agenzia ha anche scoperto uno scambio dove le grandi viti che tengono insieme rotaie e traversine si svitavano a mano. Ancora Chiovelli. Abbiamo rilevato lo stato di un deviatoio a Termini Imerese che era in condizioni assolutamente non idonee per la circolazione. Questo è stato un caso molto grave che è stato segnalato al gestore della rete, RFI, che è intervenuto tempestivamente, ma al di là del fatto specifico, la cosa che ci preoccupa è ovviamente capire se è un caso isolato oppure se invece questo è un fenomeno diffuso, e ci stiamo aspettando che RFI ci dia delle spiegazioni. Qui non stiamo parlando di un deviatoio che era con quote fuori tolleranza, come dicevamo prima, ma c'erano proprio delle gravi carenze strutturali, mancavano dei componenti di aggancio e c'era una situazione assolutamente non idonea all'esercizio. E quella è una linea dove nell'ultimo mese sono transitati più di 3.000 treni passeggeri e circa una quarantina di treni merci, insomma, quindi non certamente una linea a scarso traffico. Estendendo poi il discorso a tutto il paese, l'agenzia ha fatto controlli sulle gallerie. Tra le anomalie riscontrate anche delle carenze dal lato della manutenzione, soprattutto sulla direttissima Firenze-Roma, carenze a cui Rete Ferroviaria Italiana ha posto rimedio. Più in generale, a questo fronte va data particolare attenzione. Sul fronte delle gallerie noi abbiamo iniziato un'attività ispettiva abbastanza sistematica, cominciando dalle gallerie più lunghe delle linee a maggior traffico, e questo per cercare di verificare un pochino lo stato generale di queste gallerie. In Italia le gallerie sono tante, siamo un paese che da solo credo che abbia quasi il 50% delle gallerie che ci sono in tutta Europa, sono costruite tanto tempo fa, quindi con dei criteri evidentemente dell'epoca della costruzione. È previsto un piano di adeguamento per legge che si deve completare negli anni, però è necessario che nelle more di questo adeguamento siano adottati dei provvedimenti organizzativi che favoriscano l'aumento dei livelli di sicurezza. Nel corso delle nostre ispezioni vogliamo verificare che queste azioni da parte di Rete Ferroviaria Italiana siano fatte, che ci sia dialogo con i vari soggetti esterni per la messa a punto dei piani di emergenza e che sostanzialmente ci sia un corretto monitoraggio del traffico e dello stato della galleria. Infine, torniamo alla nostra domanda iniziale. La rete italiana è pronta alla liberalizzazione? Guardi, non è solamente un problema di incremento di volume del traffico, a mio avviso, c'è anche un problema di sistema che con l'avanzare della liberalizzazione si complica perché aumenta il numero dei soggetti che diciamo giocano sulla rete, no? Perché ci sono più imprese ferroviarie che sono in concorrenza fra di loro e questo complica ovviamente il sistema delle relazioni fra i vari soggetti e quindi anche il governo della sicurezza. Bisogna accompagnare questo processo perché è più complicato governare più soggetti che non, come magari era 15 anni fa, avere un unico soggetto che gestiva tutto il traffico. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Ricordo il mio blog Daniele Bianchessi su radio24.it. Poi c'è Facebook, Radio 24, Italia in Controluce, in Controluce su Twitter, la mail Controluce, radio24.it. La mia voce torna domani alle 6.30 su Radio 24.